speranza di non morire. Ma è così semplice, fa troppa paura questo bisogno di respirare, perché tutto possa finire, finire per non tornare. Tu mi parli, ma io non ti sento più. E tu mi guardi, ma io non ti vedo più. Non ho più figlio in questo dolore, non ho più una donna che mi possa aspettare, non ho più una terra su cui crescere e andare. E appunto arriviamo direttamente in studio, direttamente al primo dei temi che andremo a trattare quest'oggi. Con i miei sogni, con ogni ricordo, con il mio viso, con il tuo sorriso, ma che muoia la carne tra la... Con degli ospiti che non è la prima volta che abbiamo presenti di persona in studio. Li ringraziamo tra l'altro per la, appunto, la presenza ormai assidua nel nostro spazio antifascista di Radio Onda Rossa. Sono alcuni pezzetti del collettivo Militant che il 9 maggio, se non sbaglio, sabato prossimo 21, in quelli San Lorenzo al Sally Brown andranno a presentare un libro di Saverio Ferrari. Ah, scusate, l'8 maggio, venerdì, quindi rivediamo venerdì 8 maggio al Sally Brown in quel di San Lorenzo per presentare il nuovo libro di Saverio Ferrari, una voce importante in questo paese per quanto riguarda la mappatura e l'osservatorio antifascista, un libro che, come altri dello stesso autore, ci cerca di inquadrare un po' l'attività dell'estrema destra nel contesto nazionale e storico contemporaneo della politica italiana. Appunto, non dilungandomi ulteriormente, perché ovviamente essendo un libro ancora, diciamo, che deve essere presentato, non abbiamo avuto ancora modo noi di sfogliarlo, loro ovviamente sì, e quindi lascio a loro la parola per parlarcene e raccontarci questa iniziativa. Allora, salve a tutti, grazie dell'invito. Brevissimamente, anche per non togliere troppo tempo e non rubare spazio, la necessità, la volontà di presentare questa pubblicazione è sorta soprattutto partendo da una constatazione. Negli ultimi mesi, insomma, abbiamo assistito sulle librerie sugli scaffali delle librerie italiane ad un florileggio di libri sull'estrema destra, più o meno interessanti, più o meno puntuali. L'ultimo è stato Bande Nere di Berizzi, insomma un lavoraccio che doveva essere un instant book e in realtà si è rivelata, insomma, una vera e propria delusione. E quindi ci premeva provare a presentare invece conoscendo anche l'autore, la serietà del compagno, insomma, dei lavori di monitoraggio e di inchiesta che porta avanti, e provare quindi a presentare un punto di vista altro, insomma. Il libro, tra l'altro, è particolarmente interessante rispetto alla nostra situazione, perché ne parlavamo prima, insomma, microfoni spenti, si concentra molto su Forza Nuova, come organizzazione, e sul progressivo spostamento sia dal punto di vista simbolico sia dal punto di vista dei riferimenti culturali, organizzativi e intellettuali, dal neofascismo, dall'esperienza della Repubblica di Salò al neonazismo vero e proprio. E dicevamo, è interessante perché molto probabilmente noi, forse schiacciati sulla realtà romana, insomma, viviamo un po' dell'ipertrofia dell'altra area che in questo momento, almeno qui nella capitale, è egemone rispetto all'attività dell'estrema destra, che è quella di Casa Pound, è quella delle occupazioni non conformi, le cosiddette occupazioni non conformi, e così via. Mentre insomma, anche secondo Saverio Ferrari, insomma, fuori dalla capitale, in alcune regioni, soprattutto del centro nord, e l'organizzazione che ha più piedi, o comunque ha più proseliti da questo punto di vista, sembra essere Forza Nuova. L'altra cosa che ci interessava, che ci interesserà, insomma, cercare di sviluppare poi sempre con Saverio durante l'iniziativa, sarà quindi un dibattito un po' su diciamo così, lo stato della notte, fra virgolette, o comunque qual è la situazione a livello nazionale dell'estrema destra, proprio perché leggendo queste pubblicazioni, quelle di cui parlavo prima, insomma, si ha quasi la sensazione che siamo alle soglie di una sorta di nuova marcia su Roma, mentre per noi questo non è il vero rischio. È che oggi l'estrema destra rappresenta un po' l'estremizzazione di un senso comune xenofobo e razzista, che quindi trova legittimità, quella legittimità che poi gli permette di assaltare, di picchiare, di uccidere, perché comunque ci sono stati dei morti negli ultimi anni per mano di fascisti o della cosiddetta fascisteria, insomma, e quindi cercare di comprendere questo, cercare di capire quali sono i possibili anticorpi da mettere in campo. Insomma, questo è un po' il senso dell'iniziativa, a cui saranno invitati anche un compagno della redazione di informazione antifascista, un giornale di Torino che da qualche tempo ha ripreso le pubblicazioni, da pochi mesi ha ripreso le pubblicazioni, e Cristiano Armati invece, che era il curatore e scrittore di Cuori Rossi, insomma, con cui cercheremo anche di poi riallacciarci al discorso rispetto alla memoria passata e più a quella più recente, insomma, rispetto ad alcuni accadimenti degli ultimi anni, tristi accadimenti degli ultimi anni. Sì, non so se vogliamo magari ripetere l'appuntamento e se c'è da aggiungere anche qualcos'altro, magari rispetto, l'unica cosa che mi viene da sottolineare è un'iniziativa che si va ad aggiungere ad altre che come collettivo avete portato avanti sempre sul piano culturale, della proposta di testi e di autori comunque che possono essere utili per leggere non solo ovviamente il contesto dell'estrema destra, ma in generale più o meno tutta un po' questa fase particolarmente buia della politica e della cultura in Italia, in cui appunto pubblicazioni da quelle di Panza in poi, insomma, sono state al centro del mercato editoriale e anche di fortunatamente anche di contestazioni, insomma, siete venuti qua a raccontarle più volte e niente, quindi insomma sicuramente un passaggio in più fondamentale questo, appunto, con, ripetiamolo, una voce che sicuramente gli ascoltatori di questa radio magari già conoscono, ma ha sicuramente senso conoscere di persona e conoscere di persona le sue la sua articolazione di questo particolare momento storico. Sì, nel senso che ovviamente, come dicevi tu, noi pensiamo che uno dei tre aspetti fondamentali su cui poggia oggi l'antifascismo moderno sia proprio anche l'antifascismo culturale, insomma, quindi insieme a quello militante, insieme a quello sociale e politico, per cui questo è un filone che continueremo a esplorare e a battere ogni volta che ci sarà possibilità, insomma, di proporre qualcosa di interessante o di andare a rompere scatole a qualcuno di poco gradevole. Detto questo, chiudo ricordando appunto venerdì 8 alle 5 e mezza al Sally Brown, via degli Etruschi 3 a San Lorenzo. A seguire poi ci sarà un aperitivo i cui proventi verranno, diciamo così, devoluti per le spese legali dei compagni che sono stati fermati qualche giorno fa di notte durante un'affissione, che sono diventati oggetto di una sorta di campagna mediatica demonizzatrice, insomma, quindi è importante, diciamo, a quantomeno anche per far sentire a loro la solidarietà concreta, visto che poi tutto questo si traduce in spese legali, in casini e impicci, insomma, che influiscono sulla vita di chi campa di lavoro, insomma, non vive di rendita. Fatta di clown, giocolieri di lame e d'adame che aprono le gambe a chi spinge il sound. Welcome. Questa è la città eterna dello sperma di chi pugnalò il fratello per avere un suo reame infame. Te odio Roma. Odio chi te consuma. Odio i giardini che ci avevi mo coperti da una palazzina. Te odio Roma. Odio il bianco dei tuoi muri. Amo quando la gente se li scopa e fa usci colori. Te odio Roma. Odio il tuo sindaco. Mentre il nostro governo lo vede come un simbolo. Te odio Roma. Odio la tua parte antica. La tua storia, le tue fondamenta, la poesia infinita. Te odio Roma. Odio la tua arte. Sotto il nero di un fumo che vuol dire solo morte. te odio Roma. Odio la capitale che nasconde omicidi fatti alla luce del sole. Roma town fatta di clown, cioccolieri di lame, da dame che aprono le gambe a chi spinge il sound. Welcome. Questa è la città eterna dello sperma di chi pugnalo il fratello per avere un suo reame infame. Sputo su Roma, sputo sopra il suo regime, fatto di sbarre di un popolo usato come concime, che ci fa servitori per un tozzo di pane, e gli stronzi che farneticano salutandomi in suo nome. Odio Roma, odio regina, odio re Bibbia, quello stronzo alla finestra che fa i soldi con la Bibbia. Odio un catechismo che prega un finto martire e che crea un business grazie a un santo e la sua immagine. Le lacrime dei romani scorrono per il lungo tevere verso un sole che prima o poi dovrà pur sorgere. Me ne vado da Roma. E da Roma, appunto, il tema della canzone degli Apostoli di Strada che stavamo ascoltando, andiamo a Milano. Milano, la città, insomma, teatro, sei anni fa di quella che è stata definita la nera notte milanese, appunto la notte del 16 marzo 2003, in cui perse la vita Davide Dax Cesare. Ricordiamo ovviamente ogni volta con molta vicinanza e affetto verso i compagni questa figura, la figura di Davide, però anche di un altro evento particolarmente pesante per gli attivisti di quella città, le cariche brutali dentro il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, dove si erano raccolti i cari di Dax per appunto capire cosa fosse esattamente successo al loro amico e compagno, e per quelle cariche nei tanti paradossi di questo paese trovarsi a essere condannati in appello a un anno e otto mesi di galera e a circa più di 100.000 euro di danni, sono alla fine risultati essere due degli stessi attivisti picchiati selvaggiamente dalle forze dell'ordine con mazze da baseball e a calci per terra. Giovedì 7 maggio, abbiamo già avuto modo di parlarne da questi microfoni in alcuni spazi specifici dedicati, ci sarà la sentenza di Cassazione, particolarmente significativa, l'abbiamo detto più volte, perché in qualche maniera sancisce un passaggio di chiusura di alcuni procedimenti giudiziari spesso avvenuti troppo tempo fa, perché tutte, diciamo, anche le ultime generazioni si sono affacciate all'attivismo e alla militanza, se ne ricordino, e proprio per questo sono state messe in campo una serie di iniziative per parlarne, per avere modo di raccontare di nuovo quella storia. Una di queste si svolgerà il giorno precedente, mercoledì 6, presso lo spazio sociale al civico 26 di Via De Volsci, presente Cristiano Armati, che abbiamo in questo momento al telefono, se ci sente. Un saluto a tutti, ciao. Ciao, buongiorno. Perché ci sarà, appunto si partirà da quello che poi era diciamo il motivo per cui quella notte poi viene normalmente ricordata, cioè l'omicidio di Davide Dax Cesare ad opera di una famiglia di nostalgici neonazisti. Una raccolta di scritti che si chiama Ti racconto Dax, se non sbaglio. Sì, Ti racconto Dax, il sottotitolo recita ucciso a Milano il 26 marzo del il 16 marzo, scusate, per antifascista. E quindi una raccolta di testi che ovviamente c'entra su quel punto, ma puoi raccontarci come vi siete... Pronto? E è caduta la linea con Cristiano Armati, quindi in attesa di ristabilirla appunto introduciamo comunque questo discorso. C'è una memoria del recentissimo passato dei movimenti sociali, di avvenimenti che per quanto siano rimasti incisi nel quotidiano vivere e muoversi delle compagne e dei compagni di città come Milano, o come possono essere altri processi importanti a livello nazionale come Genova. Ok, hanno ristabilito il contatto, quindi possiamo tornare. Dicevamo, parlare di Dax per quella notte vuol dire parlare effettivamente di poi una storia di tutti e tutte, la storia dei movimenti, una storia che appunto ha un suo riverbero sulla vita di due attivisti, ma non solo, a distanza di sei anni. Quindi dicevamo, come vi siete immaginati? Sono nuovamente in linea. Sì, per quello stavo dicendo, di allacciare le vicende più, insomma, le vicende dell'oggi con quelle che le hanno generate ormai sei anni fa. mi sono perso un passaggio. Allora, il discorso, quello stavamo dicendo prima, perché è logico, però come siamo arrivati a raccontare, a dover raccontare a partire dalla storia proprio di 6 anni fa, quello che sono le motivazioni per cui poi i due compagni si troveranno all'ultimo grado di giudizio giovedì 7 maggio. Ti racconto Dax, appunto, è un libro che nasce proprio per cercare di rispondere anche a questa domanda. Nel 2003 appunto Dax venne accoltellato da questa famiglia di neofascisti, ma come se non bastasse questo grande lutto, i compagni di Dax che cercarono di raggiungere l'ospedale San Paolo, appunto, anche nel tentativo di conoscere le reali condizioni di Dax, vennero caricati brutalmente, addirittura con l'impiego di armi non proprio in dotazione alle forze dell'ordine, come per l'appunto mazze da baseball e quant'altro, documentato oltretutto da un video che fortunatamente riuscì a essere girato a opera di un cineamatore, ecco, presente sul posto. E allo stesso tempo questo libro non voleva semplicemente denunciare questo scandalo che per certi versi supera addirittura in brutalità quanto poi successe anche alla scuola Diaz a Genova, ma dicevo che l'intento di questo libro era anche andare oltre questa denuncia e cercare di saldare la memoria di Dax a tutta una serie di questioni sempre aperte, nel tentativo, come dire, di sottolineare anche il lato vitale di questo ragazzo, che davvero è ancora vivo. Basta farsi un giro a Milano, guardare quello che dicono i muri. Ecco, recentemente sono passato davanti a una via, una casa occupata, veniva annunciata attraverso la scritta Dax e poi sotto chi compra questa casa compra anche i suoi occupanti. Quindi il libro In memoria di Dax è stato scritto raccogliendo testi che hanno a che fare con la guerra di liberazione, quindi il ricordo dei partigiani, proprio in questi giorni messi quasi sotto accusa, insomma, da una classe dirigente che vuole un po' raccontare la storia a modo suo. Ancora una parte di scritti dedicati a Dax riguardano, com'è giusto che sia, il mondo del lavoro. Dax era un operaio, lavorava per una ditta di autotrasporti in provincia di Brescia, era uno che stava sul camion 13 ore al giorno. Dopodiché, ancora nel libro, proprio per far capire quanto sia importante saldare il ricordo di Dax a un'azione presente, non semplicemente a una commemorazione fino a se stessa, ci sono tutti i comunicati, i documenti prodotti in occasione delle ricorrenze dell'anniversario della morte di Dax, puntualmente festeggiate con atti simbolici importanti, cortei, occupazioni di casa, ecco, e quindi alla fine attraverso Dax il libro dà voce a un percorso politico generazionale forte e importante, e che oggi fa tappa a Roma perché è stato sempre intimamente legato a Roma. In un abbraccio ideale Dax è già stato qui quando per esempio venne accoltellato Biagetti, ma in tante altre circostanze in cui poi i compagni di Roma non hanno mai ovviamente fatto venir meno la forza del loro ricordo e della loro solidarietà, insomma. E quindi questa iniziativa, che se per dare delle indicazioni anche temporali. Sì, il programma si annuncia intenso, perché a partire dalle 18 al 26 appunto in via De Volsci avranno modo di parlare l'avvocato Mirko Mazzali, che segue il cosiddetto processo San Paolo, e poi uno degli imputati principali, Davide Brega, compagno di Dax, che è da Rozzano, quindi questo comune dell'Interland milanese in cui effettivamente Dax è nato ed è cresciuto, porterà chiaramente una testimonianza preziosissima di prima mano di tutti quei fatti, e poi introdurrà anche la proiezione di questo famoso documento, di questo famoso video, La notte nera di Milano, appunto, è un documento importantissimo. Basti pensare che in maniera provocatoria e arrogante il ministro degli interni di allora sfidò, come dire, chiunque avesse a che ridire sul comportamento delle forze dell'ordine a tirar fuori le prove. Diceva così perché, fatalità, quella notte le telecamere dell'ospedale, quelle che insomma sappiamo benissimo stanno un po' dappertutto, però quella notte, fatalità, non funzionarono. E poi è stato grande lo stupore quando invece, appunto, è stato possibile produrre un documento che davvero lascia senza parole, ecco. Va bene, e possiamo avere un orario, qualcosa di indicativo per... Sì, l'inizio dell'iniziativa, gli ospiti di Milano arriveranno intorno alle 16 e l'apertura dell'iniziativa è prevista poi a partire dalle 18. Poi appunto con te sei stato citato pochi minuti fa, quindi ci si vedrà di nuovo volando l'8 maggio per chi volesse al Sally Brown per un'altra presentazione. Comunque ovviamente c'è un ringraziamento di tutti e tutte, anche la tua insomma estrema disponibilità a raccontare storie delle lotte, dei movimenti sociali, come insomma sono un po' di mesi che stai facendo in maniera egregia. Beh, questo ti ringrazio molto, ovviamente ringrazio tutti i compagni che mi hanno fatto girare l'Italia anche nel corso di presentazioni, e veramente grazie a loro poi ho avuto la possibilità di scoprire in maniera diretta tante situazioni che magari si possono leggere sui giornali, ma chiaramente non è la stessa cosa. Grazie, anche se questo poi è il mio modo di raccontare le storie, e spero proprio di continuare a farlo sempre, insomma. Va bene, allora un abbraccio e ci si vede mercoledì. A mercoledì, un saluto a tutti. Orcu, mi raccomando, le parole nitide, che questa non è soltanto una questione di stile, questa è una questione di come si vive per strada, di come si fa, di quello che era noi, di come siamo noi, di come apostoli di strada crew, Mister Riga, Kamikaze, ai comandi, Orcu. Prima che il tempo ammazzi te, ammazza il tempo, ecco perché voglio una vita contro vento, sono esempio e faccio quello che mi pare, notte e giorno, voglio sentire solo spari sulle sirene intorno, tu nasconditi che io già sono sparito, non è per offenderti ma il culo c'ho la nitro, e se a te per scartare serve una macchina di classe, a me compare me basta, lo vedo dei kamikaze, c'è delinquenza in periferia, che vuoi che sia, devi aver prudenza se parli a un pullotto della vita mia, questo è Porticciolo e qua non voglio infami, è soltanto con bella musica che tiramo sulle mani, senti il suono della street che ti fotte in testa, alla corte del demonio il re vuole un beat per la sua festa, e se te piace resta che insieme famo giorno, solo compagni apostoli, niente infame intorno, a riccia poi a piccia, dopo passami la miccia, faccio un jolly al mondo e Peter primo che se impiccia, se per te sono una minaccia te dedico sta raccia, toglietemi la libertà e poi sto figlio in faccia, state m'accanto che qua non voglio infami, ti sta fottendo il suono, dopo digli che lo ami, sfonda i muri delle questure di casa Pound, sprangata a colpi di pop underground, stato out, accendi il fuoco, metti lo stato a rogo, tanto è tutta merda e le fiamme dureranno poco, se piace il gioco ce lasci le penne, se rimani le istruzioni sono fatte apposta per gli infami. Antifa, antipro, antivat, antiero, un giorno da fattone, 100.000 da guerriero, antigalera, antimultinazionale, antinazi, se te sta bene è così, se no sti cazzi, lo vedi che io manco, te carcolo davvero, la parola dovere non c'è più sul mio vocabolario, l'ho cancellata come hai fatto tu con il diritto, mo dei seri dubbi che tu ce l'abbia avuto scritto, ma da quanto cazzo va. E con un altro pezzo degli Apostoli di Strada in un disco prodotto di produzioni Renoiz, andiamo a chiudere appunto il punto sul processo di Cassazione per i due attivisti milanesi che rischiano una condanna a 1 anno e 8 mesi e a più di 100.000 euro di danni. Si svolgerà giovedì 7 maggio a Roma, appunto a distanza di 6 anni, quindi con tutta l'importanza di ripercorrere un pezzo di storia recente dei movimenti. Con ci consideriamo centrale questo appuntamento per quanto riguarda un dibattito generale sulla repressione, sul controllo dei movimenti e sulla gli spazi di agibilità. Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare, ci si è mossi tantissimo sulla libertà di movimento, sui margini di agibilità dei movimenti sociali, proprio a partire anche dalla specifica condizione italiana, soprattutto degli ultimi 12 mesi, dalla vittoria del PDL alle ultime elezioni politiche e per quanto riguarda la città di Roma, dalla insomma non neutro governo della città da parte di Alemanno e di questa appunto variegata, di questo variegato circo di nostalgici e post-fascisti che è la stessa giunta Alemanno. Per questo giovedì 7 maggio dalle ore 10 ci troveremo in piazza Cavour insieme a ovviamente a tutti e tutte quelle che hanno animato le ultime campagne relative appunto alla contro la repressione, alla libertà e all'agibilità di movimento. Con loro ricorderemo ovviamente non solo la nera notte di Milano, ma lo stesso Davide Dax Cesare, e con lui anche tutte le altre storie che pensiamo abbiano un intreccio intorno a questa vicenda, dalla storia del G8 di Genova del 2001, in cui anche lì lo Stato si è assolto da sé, ha fatto un po' tutto da solo, trovando insomma anche l'escamotage per togliere d'impiccio i propri funzionari coinvolti nelle brutalità della scuola Diaz, così come nella stessa notte milanese i due agenti accusati di abuso d'ufficio e di porto d'armi improprie hanno visto i loro reati andare o in prescrizione o essere assolti in formula piena, così come pensiamo anche sia giusto e doveroso un pensiero mandarlo a Verona a Nicola Tommasoli, di cui oggi ricorre il primo anniversario della morte, di cui oggi ricorre un po' una giornata particolare. A un anno di distanza andremo anche a sentire Verona cosa racconta di quel fatto, di quella aggressione a freddo compiuta insomma da questi 5 figli un po' tipici della Verona chiusa e cieca rispetto alle differenze, rispetto a stili di vita che non rappresentino un po' un'eccellenza come in sé forse il sindaco Tosi vorrebbe rappresentare la stessa cittadinanza di Verona. E così come vogliamo appunto affacciarci a quello che sarà poi il G8 di quest'anno in Italia, il ritorno del G8 in Italia, fondamentale passaggio proprio per anche riprendere un discorso europeo, internazionale, ormai per l'Italia insomma in qualche maniera sopito da appunto quelle giornate genovesi. Con tutte queste storie nel nostro bagaglio, appunto giovedì 7 saremo in piazza dalle 10 del mattino, mentre il pomeriggio andiamo insomma ovviamente da lì in poi il presidio andrà avanti seguendo le vicende dell'udienza. Dalle 6 del pomeriggio a Milano invece si svolgerà in contemporanea un presidio in piazza San Babila, e sempre a Milano sabato 9 maggio alle 18 un concentramento alle colonne di San Lorenzo, per chi si dovesse magari passare là o magari ci ascolta direttamente da Milano. E tutto questo aperto mercoledì 6, come raccontavo prima, con Cristiano Armati, dalla presentazione di Vi racconto Dax e dalla proiezione del libro La nera notte di Milano presso lo spazio sociale di Via De Volsci 26. We'll be right back. alle 12.57 con una trasmissione che verosimilmente si estenderà un po' più a lungo rispetto al solito orario, andiamo a fare una finestra rispetto a quella che è stato anche un po' il tema di il filo conduttore di questa trasmissione e che tornerà anche proprio in chiusura, visto che comunque in chiusura vi andremo a proporre anche un collegamento con Verona, appunto nell'anniversario della morte di Nicola Tommasoli. Ci tenevamo però a anche un po' spezzare con questa finestra per con una delle nostre voci più affezionate. Ci senti? Sì, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene. Sì, ti sentiamo abbastanza bene. Allora, noi con te andiamo a fare un po' appunto a dare un po' uno sguardo, una panoramica a quanto si muove nella galassia delle destre, delle in qualche modo tutte quelle pulsioni più o meno xenofobe e quant'altro che si muovono in questo caso oltreoceano, visto che, come anche consuetudine di questa trasmissione, andare a fare un po' panoramiche di quanto si muove anche lontano da questo paese, con te oggi parliamo, se non sbaglio, dell'America, giusto? Sì, diciamo che magari iniziamo un racconto per quanto riguarda la realtà non soltanto delle destre, delle nuove destre organizzate negli Stati Uniti, ma anche del clima nel quale diciamo si stanno muovendo attualmente. Dico l'inizio di un percorso perché probabilmente varrà la pena e sarà interessante magari in futuro ragionare anche un po' scomponendo gli elementi, vale a dire cercando di capire che cosa sta accadendo da un lato dentro al Partito Repubblicano con il vento in poppa negli ultimi 10 anni e oggi appunto sconfitto da Barack Obama, come che cosa sta accadendo diciamo all'interno del paese, nella destra sociale spesso radicale e diffusa che proprio in questo momento sta rialzando la testa. Lo scenario nel quale tutto ciò accade è segnato da due elementi fondamentali, diciamo, per la cultura delle destre radicali statunitensi. Da un lato la prima elezione di un presidente afroamericano che ha ovviamente rappresentato simbolicamente una rottura, la rottura di un tabù, per quanti in qualche modo si vogliono ancora oggi eredi della cultura segregazionista, della cultura dell'apartheid, della divisione ferrea su base razziale, diciamo, del potere della società statunitense. L'altro elemento forte, diciamo agitato in questo momento, è quello della crisi economica e sociale che sta facendo riesplodere, riemergere una parte di quelle culture complottiste che negli Stati Uniti, dove tra l'altro diciamo il movimento operaio, i movimenti dei lavoratori hanno avuto una tradizione particolare, non la stessa tradizione culturale di ispirazione socialista o anarchica che hanno conosciuto in Europa, comunque con diciamo un influsso molto minore di queste tendenze culturali, spesso all'interno del mondo del lavoro le fasi di crescita, di crisi o di diciamo di decrescita sono state vissute anche all'insegna diciamo della xenofobia, dell'emergere della guerra tra poveri. In questo caso il crollo della borsa e la successiva, prima ancora la crisi dei mutui, insomma il clima che da alcuni mesi sta colpendo l'economia americana, ha fatto riemergere, e lo segnalano diciamo due realtà statunitensi che per la loro diversità ci dicono che probabilmente qualcosa di serio sta accadendo, nel senso il Southern Poverty Law Center di Atlanta, che è il principale organismo di monitoraggio del razzismo negli Stati Uniti, dell'attività della nuova destra, fondato da Martin Luther King negli anni 60 e che quindi rappresenta sostanzialmente gli elementi progressisti della comunità afroamericana, e dall'altra parte l'Anti-Defamation League newyorkese, che è un po' diciamo il braccio della comunità ebraica americana, un braccio fortemente conservatore, spesso legato ai repubblicani, ma dal punto di vista della documentazione il maggiore centro di analisi dell'antisemitismo negli Stati Uniti. Ebbene, entrambe queste organizzazioni così diverse, così lontane tra loro, segnalano in questi ultimi mesi un riemergere da un lato dell'attività di spesso gruppuscolare, ma comunque di realtà della radicale, spesso neonazista, comunque di suprematisti bianchi, come non registrava dal 1995, cioè da quando gli Stati Uniti furono colpiti dal più feroce attentato mai compiuto sul suolo americano, prima delle Twin Towers, vale a dire la distruzione di un intero edificio federale, Oklahoma City, dove un gruppo di miliziani, di suprematisti bianchi legati al movimento delle milizie, mise un camioncino imbottito di esplosivo per distruggere gli uffici dell'FBI che erano ospitati appunto da questa struttura. Bene, da allora non c'era mai stata una recrudescenza come oggi dell'attività di gruppi neonazisti. L'altro elemento è quello del ritorno, diciamo, di vecchie culture complottiste, di vecchie letture, diciamo, dei fenomeni della crisi, che attribuiscono alla finanza apolide vagamente ispirata diciamo dalle lobby ebraiche, una specie di riedizione dei protocolli dei sali di Sion, che volevano appunto il complotto ebraico per dominare il mondo, e dall'altra parte il riemergere della questione dell'immigrazione, in particolare alla frontiera sud del paese, con i milioni di latinos che varcano quotidianamente la frontiera, o i milioni di latinos senza documenti che vivono negli Stati Uniti, come l'altro elemento, diciamo, che richiama alla crisi, nel senso che appunto la destra radicale agita il tema del se c'è la crisi, perché tenerci a casa nostra tutti questi stranieri clandestini, qualcosa che conosciamo anche molto bene nel nostro paese, ma che negli Stati Uniti assume proporzioni numeriche e vastità di orizzonti assolutamente inediti. Questo... Sì, infatti quello che stavo per dirti era proprio che questa qua non è una peculiarità dei cosiddetti, anzi in questo caso proprio dei nazisti e dell'Illinois, ma sia il fatto che la crisi dia anche aria e ossigeno ai gruppuscoli nazisti con tutte le loro tesi complottiste e quant'altro. In realtà è una realtà che conosciamo bene anche in Italia, però ovviamente quelli che sono anche fatte le dovute proporzioni in America, chiaramente immagino che acquistino un altro peso. Sì, e poi diciamo c'è una tradizione diversa, nel senso che, per ricordare un precedente storico, negli anni della grande crisi, quella del 29, che spesso viene citata a riferimento quando si parla appunto del nuovo crollo delle borse di questi mesi, il Ku Klux Klan, la maggiore organizzazione della destra radicale americana, quella che poi aveva trovato origine proprio negli Stati Uniti, quindi incarnando tutta la peculiarità storica del dopoguerra civile, eccetera, aveva milioni di iscritti, e alcuni presidenti, oggi dai nomi più o meno sconosciuti e dimenticati, si disse che nel periodo tra le guerre, le due guerre mondiali, avevano in tasca la tessera del clan, che non rappresentava, diciamo, una stigmate sociale, ma anzi in qualche modo in alcuni enti conservatori rappresentava una sorta di patente di americanità. Questo per dire che appunto il problema negli Stati Uniti è quanto profondo è il gap tra la politica ufficiale, tra quello che, diciamo, si esprime nel politicamente corretto, e questi umori profondi. Il problema è che oltre 15 anni di rivoluzione conservatrice, a seconda che lo si dati da Bush figlio o da Reagan addirittura, hanno prodotto una emersione di alcuni temi politici, nel senso che i legami sempre più forti tra il Partito Repubblicano e questa destra radicale e complottista sono diventati espliciti. I temi anti-establishment sono stati agitati direttamente dai candidati, magari poi eletti alla presidenza degli Stati Uniti d'America, il che ha prodotto una innovazione su un terreno appunto che era già lavorato socialmente e diffuso. Un piccolo esempio: quando a metà degli anni Ottanta un'altra crisi finanziaria colpì in particolare in quella stagione il settore dell'agricoltura, mettendo in crisi, diciamo, la grossa fascia agricola del Midwest, per capirci molte aziende a gestione familiare finirono all'asta e le banche mangiarono, diciamo, proprietà che erano state magari della stessa famiglia di generazione in generazione, piccoli agricoltori, ben inteso, non multinazionali, diciamo, dell'agricoltura intensiva. Una parte di quegli agricoltori si ritrovò nelle teorie cospirative ispirate dalla Christian Identity, ispirate da, diciamo, i movimenti che leggono in una in una logica complottista tutte le vicende sociali e politiche degli Stati Uniti. E il movimento ebbe quella stagione una diffusione di massa. Diciamo, da quel momento si data l'origine del cosiddetto circuito del movimento delle milizie, che poi arriva a maturazione nel decennio successivo, negli anni 90, con decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di militanti, e probabilmente un circuito di sostegno di milioni di piccoli americani, soprattutto appunto non nelle grandi aree urbane ma nei territori suburbani o in fasce come quelle del Midwest, un po' marginali rispetto alla politica. Questo è lo scenario in cui oggi si ricominciano a agitare i movimenti della destra radicale, con questi due elementi, la presidenza di Obama e la crisi economica. È chiaro che l'allarme lanciato dalle organizzazioni antirazziste statunitensi ci dice che probabilmente qualcosa si sta davvero muovendo e che bisognerà anche nei prossimi mesi, se non anni, sorvegliare in qualche modo che cosa accadrà, e magari nel nostro piccolo cercare di farlo anche dai microfoni di Maldestra. Infatti, quello che ti stavo anche per dire era che tu hai dato anche una serie di spunti molto interessanti che in qualche modo sarebbe interessante andare a sviluppare poi e sviscerare nelle prossime trasmissioni, anche magari in qualche modo a puntate, un viaggio in questa America più chiusa, andando a raccontare poi in maniera un po' più approfondita quelle che sono appunto le trasformazioni del Partito Repubblicano, come abbiamo cominciato a accennare adesso, o di quanto si agita anche a destra di esso. Io non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere, oppure ci possiamo allora a questo punto riaggiornare nelle prossime settimane. Sì, assolutamente, appunto magari seguendo il tuo consiglio, quello di affrontare al di là dell'emergenza di ciò che accadrà o accade già in questo momento questa storia un po' per capitoli, perché credo sia appunto, ripeto, un po' particolare per le culture politiche che non sono le stesse di qua e al di là dell'Atlantico. Va bene, allora a presto, ti ringraziamo, ciao. Ciao, grazie. We're told that after the war the Nazis vanished without a trace, but battalions of fascists still dream of a master race. The history books they tell of their defeat in 45, but they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. They say the prisoner of Spandau was a symbol of defeat. Whilst Hess remained in prison, then the fascists, they were beat. So the promise of an Aryan world would never materialize. So why did they all come out of the woodwork on the day the Nazi died? E per chi stesse aspettando il GR, comunichiamo che non andrà in onda oggi il GR dell'Una, ci stiamo dilungando anche per questa, appunto, questa disponibilità in più di tempo. And we'll never rest again until every Nazi dies. E sulle note dei Chumbawamba andiamo a introdurre l'ultimo capitolo, diciamo, di questa puntata di Maldestra. Come avevamo anche annunciato, riprendiamo quello che è stato un po' il filo rosso di questa trasmissione, ovvero la memoria e l'andare a raccontare le storie che ci riguardano a tutte e a tutti. Siamo in collegamento nello specifico con Verona, con Paola Bonatelli, ormai voce consueta di questa trasmissione. Ci senti? Sì, ciao a tutti. Ciao a te. Allora, ovviamente, come anche scontato, visto la triste ricorrenza che cade quest'oggi, quello che noi ti andiamo a chiedere è di raccontarci un po', di fare il punto della situazione riguardo a un anno dall'omicidio di Nicola Tommasoli. Nella città di Verona, se non sbaglio, il 1° maggio c'è stata anche una manifestazione, no? Sì. Una manifestazione che tra l'altro ha percorso diverse tappe, una sorta di tra virgolette, certo, via Crucis, una specie di via Crucis, esatto, della città veronese, che in qualche modo appunto non parlava solamente di quell'omicidio specifico ma di tutto il clima che si respira nella città di Verona, giusto? Sì. Se ci vuoi raccontare un po'. Certo. Allora, intanto faccio una premessa, ecco, dal punto di vista processuale il processo è sospeso, riprende il 29 maggio con almeno si spera, la relazione del super perito che è stato nominato dalla Corte, che è Carlo Torre, che è un professore di Torino, che fra l'altro è lo stesso perito che studiò anche i casi di, non so, di Ilaria Alpi e anche di Carlo Giuliani. È un perito abbastanza discusso da un certo punto di vista, però considerato un luminare. Quindi il 29 maggio dovrebbe riprendere il processo e in teoria dovrebbe esserci la relazione appunto di questo super perito, e su quel fronte lì le cose non sono cambiate, cioè i quattro ragazzi dei cinque imputati sono ancora in carcere, uno agli arresti domiciliari, l'unico che ha accettato, diciamo, l'interrogatorio della Corte. Per quanto riguarda invece, diciamo, la memoria collettiva, appunto il 1° maggio c'è stata una manifestazione cittadina abbastanza partecipata, che si è svolta a tappe appunto della memoria, nel senso che c'è stata una prima tappa alla partenza, dalla piazza da cui si è partiti, dove c'è anche la chiesa in cui gli integralisti cattolici celebrano le loro messe in latino, le messe in rito antico, e dove in ottobre dell'anno scorso, non so se vi ricordate, mi pare che forse ne avevamo anche parlato, era stato invitato un vescovo argentino colluso con la dittatura, e poi grazie appunto alle proteste che c'erano state in quei giorni eccetera, poi non venne. La seconda tappa riguardava invece uno sgombero di migranti che è successo un paio di anni fa, queste case di questo quartiere Veronetta, che è, insomma, il quartiere, diciamo, più popolato dai migrati, e dove lo scandalo non fu tanto, cioè a parte lo sgombero naturalmente, che è sempre una cosa molto dolorosa, ma più che altro poi si scoprì che questi appartamenti erano stati affittati a prezzi esorbitanti e non avevano nemmeno le norme igienico-sanitarie più elementari, affittati naturalmente da italiani. E quindi questa è stata la seconda tappa, abbastanza divertente, perché poi i ragazzi avevano costruito una casetta di cartone che è stata lasciata lì simbolicamente, insomma, per così per ricordare a tutti che il problema della casa è ancora un problema reale in questa città e penso anche nelle altre. Poi c'è stata una tappa lungo il percorso vicino all'università, dove 10 anni fa un comitato di cittadini molto coraggioso e molto piccolo riuscì a strappare un'enorme area, si parla di 200.000 più o meno metri quadrati, di caserme che dovevano passare alla NATO, e invece questo comitato in 2 anni di lotta durissima e quotidiana riuscì a farlo passare, diciamo, al comune, quindi a renderlo pubblico, e questa enorme area passò così alla città, allora con la promessa di farne sia una parte di struttura, diciamo, per l'università che soffoca, e una parte per il quartiere. Adesso con questo nuovo sindaco, Flavio Tosi della Lega, sembra che ci sia invece stato un accordo per demolire alcuni edifici e fare edilizia privata e centro commerciale, riducendo quindi di molto sia la parte dell'università che quella del quartiere. E quindi proprio in questa tappa c'è stato l'invito degli studenti a riprendere, diciamo, a riformare questo comitato e a riprendere la lotta per liberare questo spazio, che sarebbe veramente un grande polmone sia per il quartiere che per l'università. Poi c'è stata la tappa dell'intitolazione dell'Ungadige Pasetto, la giunta Tosi finalmente è riuscita dove altre giunte non sono riuscite, cioè a intitolare una strada a questo deputato missino che è morto in un incidente stradale una 10 anni fa, una figura mitica dell'estrema destra veronese, picchiatore in gioventù, e che appunto lì è stato ricordato attraverso una lettera scritta dal padre di uno dei ragazzi pestati una 30ina di anni fa poco meno nell'81, appunto da questo deputato che adesso ha questa strada, insomma, intitolata a lui. E poi niente, poi il corteo ha ripercorso un po' le tappe degli ultimi pestaggi, quindi fermandosi anche a Piazza Viviani, dove in gennaio c'è stato l'ennesimo pestaggio di un gruppetto di ultras dell'Hellas, ovviamente di destra, eccetera, contro un gruppo di ragazzi che avevano protestato per le loro canzonacce volgari e razziste. E per finire a Corticella Leoni, dove appunto un anno fa è stato aggredito a morte Nicola Tommasoli. E la manifestazione è stata molto partecipata, molto sentita. Alla fine della manifestazione c'è stato anche un intervento telefonico di Margherita Hack, che a Verona viene abbastanza spesso, insomma è una figura abbastanza conosciuta, e che parlava appunto dei legami fra il fascismo e le istituzioni. Questo è stato un po' il tema della questione. Ecco, per il resto la città l'ha ricordato, vabbè, con una manifestazione silenziosa da parte di questo gruppo che si chiama Madri per una Verona civile. La targa che il comune aveva posto con un testo scritto in accordo con i genitori adesso non c'è più, perché c'è un cantiere sul palazzo, quindi stanno rifacendo, diciamo, gli intonaci, e l'hanno tolta, hanno detto che la rimetteranno a giorni. Però diciamo che la città, a parte la manifestazione, questo presidio silenzioso, è stata abbastanza assente in questa ricorrenza, e del resto credo che non ci sia da stupirsi, nel senso che sappiamo, insomma, l'abbiamo già detto tante volte, che questa amministrazione è fortemente collusa con la destra radicale, con gli integralisti cattolici e con tutta, insomma, una parte di città che certo non è né tollerante né aperta, e quindi non è così strano, diciamo, che non ci sia stata una memoria più condivisa. Sì, infatti proprio su questo, poi l'hai detto te, era, diciamo, questo era proprio il punto su cui volevamo soffermarci, cioè la reazione della città a questo primo anniversario della morte di Nicola Tommasoli, il primo anniversario comunque che è passato anche, diciamo, questo ce lo poniamo anche come ovviamente un punto di demerito per tutti noi, effettivamente anche a livello nazionale in maniera molto silenziosa, non c'è stata per essere appunto un anniversario il primo, molto caldo in realtà per quello che poi sono le memorie recenti, per tutto quello che è successo. Non vorremmo, anzi, forse che ormai il susseguirsi continuo di fatti di questo tipo diciamo in qualche maniera poi diluisca le storie che non hanno magari quelle gambe solide anche per il tessuto sociale in cui avvengono, di cui si possono contornare, rischiano di andare dissiparsi nel tempo, immaginiamo. Sì, devi tenere conto, fra l'altro, come ho detto prima, che purtroppo la collusione o comunque la tolleranza che molti politici dimostrano in città verso questo tipo di manifestazioni di violenza, ma anche il fatto che come dire, è più comodo per la coscienza collettiva pensare che una cosa del genere sia stato un fatto accidentale, un fatto casuale di due gruppi di ragazzi a tarda notte che magari avevano un po' bevuto, eccetera, e una botta in più, un calcio in più, eccetera. Quello che su cui questa città, e presumo anche molte altre, non vogliono riflettere è in realtà sul terreno che genera questa violenza. Quindi quanto possa diventare sistematico, proprio il fatto che nell'ultimo, esatto, nell'ultimo anno ne parlavamo proprio rispetto diciamo, giovedì c'è la Cassazione per la notte del 16 marzo 2003, l'omicidio di Dax, certo, quando avvenne sembrava qualcosa di veramente estemporaneo anche agli occhi dei militanti più magari più attivi, con appunto con più attenzione rispetto a certi fenomeni, eppure da lì a pochissimi anni ci siamo ritrovati praticamente ad aprire vere e proprie campagne sull'utilizzo politico del coltello, sullo status symbol della violenza, diciamo, di strada sul corpo di migranti, di chi generalmente può essere definito ovviamente un elemento di diversità, di discontinuità per diciamo la mentalità di ordine e disciplina che si vuole dare al nostro vivere quotidiano, alle collusioni politiche, quelle che dicevi giustamente. Quindi evidentemente è lì che va ripercorso il, diciamo, a ritroso il passaggio, arrivando magari veramente a quel 16 marzo 2003 in cui, diciamo, si è veramente aperta una vera e propria un vero e proprio capitolo di storia recente italiana, in cui la storia di Nicola Tommasoli è in qualche maniera a sé di per sé un elemento emblematico, per tutti quegli elementi anche territoriali specifici che Verona rappresenta, per anche la stessa personalità di Nicola, che ovviamente è distante poi magari da quella dell'attivista, da quella di chi comunque mette in gioco dei pezzi di se stesso, insomma, anche della propria libertà nell'attivarsi quotidianamente. Quindi certo, comunque il problema credo che sia il fatto che poi si continui sempre a parlare di questo disagio generico, no? Queste cose che succedono perché i giovani hanno il disagio, soffrono il disagio, eccetera, eccetera, senza mai riflettere realmente su quali sono le radici, su cosa fare per poter anche trasformare, diciamo, questo disagio appunto in qualcosa invece di attivo, di critico, eccetera, eccetera. Questi discorsi qui veramente sono vox clamans in deserto, ecco, diciamo che la gente in generale, anche se gente a me non piace come però preferisce, diciamo, non pensare a queste cose perché naturalmente disturbano il loro quotidiano, e in questo momento anche di crisi, proprio di sopravvivenza, diciamo, non sono discorsi tanto accettati o tanto portati avanti, ecco. E quindi noi qui, come penso anche appunto in altri luoghi, dobbiamo lottare molto contro questa indifferenza, contro questo lasciare andare, ecco, è un po' quello anche il discorso, no? Che le puntualizzazioni sono dolorose, però sono sempre necessarie. Va bene, pensiamo che, diciamo, sia tutto, abbiamo anche abbondantemente, diciamo, sforato, anche se dicevamo oggi, non essendoci il GR, abbiamo avuto qualche minuto in più. Con te ovviamente l'appuntamento è appena ci saranno anche novità dal punto di vista processuale o in generale dalla città di Verona, da quello che si muove in quel contesto territoriale, e per il resto con gli ascoltatori ci riaggiorniamo a martedì prossimo a mezzogiorno e un quarto. Salutiamo te e tutti e tutte gli ascoltatori e ascoltatrici. Ciao a tutti, ciao, grazie, ciao. E quindi chiudendo le ultime parole, insomma, le spendiamo per ricordare i riferimenti web www.ondarossa.info, maldestra.noblogs.org, e il 7 maggio, giovedì prossimo, dalle ore 10 in piazza Cavour, per solidarizzare con gli attivisti milanesi che avranno l'udienza di Cassazione per il processo del San Paolo del 16 marzo, dei fatti la notte del 16 marzo 2003. Con questo è tutto e ci salutiamo.